America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, come sempre ci sono mille tematiche che riguardano gli Stati Uniti, sempre di grande interesse. C'è naturalmente il post Orlando, c'è la sfida politica, anzi c'è stata la notizia che riguarda Donald Trump. Come al solito Trump riesce comunque a conquistare le prime pagine, cioè ha deciso di licenziare improvvisamente Corey Lewandowski, che era stato il capo della sua campagna. Perché? Beh, perché sente il fiato di Hillary Clinton alle spalle, dunque deve cambiare qualcosa nella sua strategia. Ma vi dicevo, oggi voglio parlarvi di qualcos'altro. Voglio dedicare la copertina di questa settimana a Brexit, perché è un evento, Brexit, che non riguarda solo l'Europa, ma riguarda gli Stati Uniti, riguarda il multilateralismo, pilastro chiave su cui costruiamo i nostri affari internazionali, riguarda il resto del mondo. Sentiamo. The United States wants a strong United Kingdom as a partner, and the United Kingdom is at its best when it's helping to lead a strong Europe. Ecco, avete sentito il presidente Barack Obama, che tra l'altro è stato in Inghilterra, ha fatto addirittura campagna perché la Gran Bretagna voti per il sì, che incoraggia gli inglesi e l'Inghilterra e la Gran Bretagna a votare sì per l'Europa, a restare in Europa, a impedire che ci sia un collasso di quello che è stato un ordine multilaterale costruito dopo decenni e decenni di lavoro, e devo dire un ordine a cui gli Stati Uniti tengono moltissimo. E dunque la copertina di questa settimana la voglio dedicare a Brexit, a questa vicenda europea, a questo voto incredibile, perché uno non può immaginare che, parlando di ideali europei, di Unione Europea, di quegli ideali che ci hanno sempre spinto fin dal Trattato di Roma, firmato nel marzo del 1957, quando si creò il primo embrione di quella che sarebbe poi diventata l'Unione Europea, ecco, che si possa pensare di fare dei passi indietro. Io so benissimo che ci sono delle forze contrarie alle grandi burocrazie centrali, condivido in pieno le critiche alla governance europea, alla burocrazia europea che cerca di controllare tutto, che impone delle regole a volte totalmente prive di senso, ma una cosa è criticare e lavorare per migliorare. Qui devo ricordare uno dei punti chiave della Costituzione americana: per formare a more perfect union. E una cosa invece è rompere l'unione e distruggerla. Queste forze che ci sono per il non stare insieme, e lo dico questo perché non ci sono soltanto in Gran Bretagna, ci sono nell'Europa continentale, ci sono molto da noi in Italia, beh, sono delle forze che dovrebbero riflettere, perché rompere un meccanismo come quello dell'Unione Europea, che è stata creata dopo tanta fatica, dopo tante guerre, dopo tanto sangue, tanti sudori e dolori, beh, sarebbe un fatto gravissimo, perché poi ricostruirlo di nuovo sarebbe molto difficile. Ed è attorno a questo che si è creata la reazione dei mercati. Stocks fell yet again on Wednesday, making it 5 sessions in a row. Ecco, siccome il timore che la Gran Bretagna possa votare no in America è percepito un po' come un incubo, cioè da una parte possono capire l'istinto inglese, appunto perché c'è questa autorità centrale europea che non si capisce da chi è guidata, non è una vera democrazia, non c'è un'autorità fiscale centrale, ci sono mille confusioni. E beh, dall'altra gli Stati Uniti vedono l'Europa come un'entità, come un punto di riferimento solido in quello che è l'ordine geopolitico che si è creato dopo le guerre mondiali. Gli americani sono favorevoli all'euro, contrariamente a quello che molti pensano in Europa. Ormai Europa e Stati Uniti sono due entità geopolitiche, geoeconomiche, che appartengono l'una all'altra, e per questo gli americani vorrebbero vedere l'Europa semmai rafforzata dal punto di vista fiscale, magari più snella, senza le rigidità, le ossessioni dell'austerità, per esempio, che arrivano dalla Germania. Insomma, c'è da parte americana una grossa preoccupazione, una preoccupazione che poi ha trovato il suo riflesso sui mercati. 5 sedute consecutive di perdite a Wall Street, tutte dovute al rischio di Brexit. La Federal Reserve ha deciso di non aumentare i tassi di interesse anche per Brexit. Dunque, fra pochi giorni arriveremo al momento fatidico del sì o del no, e purtroppo ci siamo arrivati anche attraverso la tragedia dell'uccisione di Joy Cox, questa donna laburista di 41 anni, membro del Parlamento inglese, uccisa da un fanatico. Ecco, questa cosa ha cambiato molto la psicologia del dibattito sul voto, e il fatto che una persona abbia potuto addirittura pagare con la sua vita attorno a un ideale, devo dire, questo in sé e per sé dovrebbe davvero farci riflettere e farci capire che è molto meglio andare avanti verso un'unione più forte e più perfetta, come dicono gli Stati Uniti, piuttosto che rompere tutto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dedicarla a quello che auspico essere un no per Brexit, e cioè la costruzione di un ponte più forte sul canale della Manica. E dunque mi viene in mente la canzone di Simon & Garfunkel, straordinaria, Bridge Over Troubled Water. Un ponte, speriamo che sia forte, su acque turbolente. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!